Capitolo 22. Sul foglietto di carta c'è scritto: Stazione Leningradsky, 10:30, binario 4, AK. Bogdanov distinto lo accartoccia e lo butta nel caminetto. Il fuoco divorò la carta. Perché lo ha fatto? La fuga dal comizio dell'opposizione di qualche giorno prima gli ha lasciato addosso un senso di inquietudine. La stringatezza del messaggio sembra voler gettare un ponte tra due vite vigilate. Di certo lo è quella di Alessandra Kollontai. Chissà quella di Bogdanov. Proprio ieri, durante la passeggiata con Danny, si è fermato a sfogliare la Pravda nel caffè vicino all'istituto. Un articolo ha attirato la sua attenzione. Invitava l'opposizione a un atto di disciplina, perché solo questa permette di compiere grandi imprese. E la disciplina consiste nell'accettare la sconfitta, perché il popolo sta col partito e continuare a dividerlo è un gesto arrogante. Il pezzo portava la firma dell'ambasciatrice sovietica nel Regno di Norvegia, già commissaria del popolo per la solidarietà sociale ed ex oppositrice, Alexandra Kollontai. Il biglietto ormai bruciato potrebbe avere un legame con l'articolo, ma Bogdanov non ha nessuna voglia di discuterne e si domanda perché mai l'autrice dovrebbe farlo proprio con lui, alla stazione, mentre è in partenza per la terra dei fiordi. Avrebbe dovuto interrogare il fattorino per cavargli qualche particolare in più, ma quello, a giudicare dall'aspetto, doveva essere un ragazzo ingaggiato per l'occasione, ed è sparito appena consegnato il biglietto. Bogdanov esce di casa. Non ha detto nemmeno Natalia dove è diretto. Eppure non sta facendo niente di illecito, segno che i tempi stanno cambiando, che la rivoluzione sta cambiando. Paura. Non più della vendetta borghese, dei bianchi, delle potenze imperialiste, ma di se stessi, di ciò che potrebbero diventare. Sale sul tram e si fa largo, tra i corpi incappottati, fino a guadagnare un posto vicino alla portiera, salvo poi lasciarlo a un'anziana donna che spunta appena sotto lo scialle di lana tirato fin sopra la testa. I finestrini sono appannati dal fiato dei viaggiatori, tanto che Bogdanov deve pulire il vetro con il guanto per riconoscere la stazione. Scende appena in tempo e si ritrova di fronte al bel palazzo in stile italiano, coi capitelli corinzi sui pilastri e le bifore al pianterreno. L'orologio sulla torre segna le 10:15, meglio affrettarsi. Entrato nel grande salone, punta l'ingresso al binario 4. Fende la folla di passeggeri e si imbatte nel capotreno, che si aggira inquieto accanto alla locomotiva. «È questo il treno per Leningrado?» «In partenza tra pochi minuti», risponde l'altro. Oltre il ferroviere, ecco Alexandra Kollontai, in piedi sulla banchina. Indossa guanti neri da grandama, sopravvissuti a un'epoca finita, e un colbacco di pelo. Il cappotto militare le arriva alle caviglie e sul bavero spicca la bandiera dell'Unione. La raggiunge, notando le valigie che la circondano e i solerti facchini che le caricano sul treno. Lei gli sorride ed è il sorriso di una vecchia ragazza che non smetterà mai di affascinare gli uomini. «Quindi è vero, te ne vai?» «Sì, giusto in tempo per perdermi le celebrazioni», risponde lei, affettando indifferenza. «Tutto sommato, mio caro, non mi dispiace cambiare aria. Qui diventa ogni giorno più pesante». Poi pare leggere qualcosa nell'espressione di Bogdanov, qualcosa di cui nemmeno lui si rende conto. «Ho scritto quello che penso», dice con durezza. «Mi è costato farlo, ma è la verità. Non ti ho fatto venire qui per avere la tua assoluzione, Bogdanov». «Me ne compiaccio», risponde lui. «Mi avresti deluso». I bagagli sono a bordo, i facchini si congedano e lei li ringrazia con una stretta di mano. Dal finestrino spunta la testa della giovane donna che Bogdanov ha già incontrato alla foresteria del ministero. «Compagna Kollontai? Il treno sta per partire». Alexandra Kollontai fa un cenno di assenso e la testa rientra nello scompartimento. «Non farti mai affibbiare una segretaria, dammi retta», dice in tono complice. «Controllano ogni cosa che fai». Lancia un'occhiata sprezzante verso lo scompartimento. «E probabilmente la riferiscono pure. Loro invece sono i miei angeli custodi», aggiunge, indicando due uomini guardinghi in piedi accanto alla portiera del treno. Dalla postura si direbbero militari o poliziotti. Per la mia incolumità, dice ancora lei, con una punta di sarcasmo, nel caso qualche agente imperialista volesse vendicare l'istituzione degli asili statali e l'indennità di maternità. Di colpo si fa seria e pare studiarlo, come indecisa di qualcosa, mentre il capotreno consulta l'orologio. Non ti ho detto tutta la verità su Volok. Perché? Domanda Bogdanov. Il suo stupore pare divertirla. Perché la mia vita non ti riguarda, mio caro. L'altro giorno avevi l'aria del ficcanaso. Bogdanov rimane zitto, in attesa della rivelazione. Rividi Leonid a San Francisco nel 1915, riprende lei. Tenni una conferenza alla Lega dei Portuali e lui era tra il pubblico. Forse fu la casualità di quell'esserci ritrovati, non lo so, ma tra noi ci fu un ritorno di fiamma. Mi disse che mancava dalla Russia da 10 anni, ma finché durava la guerra non sarebbe rientrato. Non voleva rischiare di essere richiamato alle armi. Disse che era già rimasto fregato una volta. Aveva anche avuto un trauma da esplosione che gli aveva storto il cervello. Disse proprio così, storto il cervello. Alexandra Kollontai assapora i propri ricordi. Era un bel tipo, vero? Soggiunge. Affrontava la vita con lo spirito giusto. Come se non gliene importasse, dice Bogdanov. Sì, come se non gliene importasse, ripete lei. Come se ci fossero soltanto l'oggi e il domani. Io sbarcai di nuovo in Russia nel gennaio del 17. Qualche mese dopo, mi pare, ricevetti una lettera di Leonid, nella quale mi diceva che aveva deciso di tornare. Guerra o no, una Russia senza i Romanov non voleva proprio perdersela finché durava. Ricordo che a una delle ultime riunioni del Consiglio dei Commissari del Popolo, poco prima che il governo si trasferisse a Mosca, Menzhinsky mi disse che aveva incontrato Volok, da poco rientrato dall'estero. Non ho più saputo niente di lui. Bogdanov riflette su quanto ha appena ascoltato. In effetti, combacia con i ricordi di Dmitriev, anche se Leonid non è mai tornato alla vecchia casa. «Perché hai deciso di dirmelo?» domanda. «Perché sembra che per te sia importante, e invece per me non lo è più. Appartiene al passato, e non c'è motivo di essere gelosi del passato. Non di meno, pare cullarlo fissando il vuoto. Sai cosa ricordo in particolare di lui? La sua risata era larga, contagiosa. Noi siamo sempre stati troppo seri, Bogdanov». «Sì», conviene lui. Il capostazione invita i ritardatari a salire in carrozza. La testa della segretaria spunta ancora dal finestrino e questa volta il tono è perentorio. «Compagna Kollontai, vi prego di salire!» Gli angeli custodi le fanno segno di accomodarsi a bordo. «Devo salutarti!» Inaspettatamente gli fa una carezza. «Fai attenzione, sarà un duro inverno!» Sale la scaletta. Il capostazione fischia e il treno si muove lento. D'un tratto Bogdanov la vede sporgersi dal finestrino e salutarlo con un gesto ampio, regale. Una regina guerriera. Domata, mai vinta, indurita dalla storia più che dall'umanità. Lui le restituisce il saluto nascondendo l'ondata di commozione che minaccia di sopraffarlo. Soltanto quando il treno è partito, dietro la curva dei binari, si volta e torna sui propri passi. Invece di raggiungere la strada, siede nella sala d'attesa, come un passeggero in partenza. Leonid ha evitato la guerra. È rientrato soltanto quando i bolscevichi hanno preso il potere e spinto la Russia fuori dal conflitto. È stato più saggio di lui, che invece si è ritrovato ufficiale medico a rattoppare ferite sotto i bombardamenti e a chiudere gli occhi ai cadaveri in trincea. La guerra gli ha regalato la nevrastenia, mesi di sanatorio. Un calvario simile a quello di Leonid dopo Tiflis. Ne sta ancora pagando il conto. Il mondo intero lo sta ancora pagando. La rivoluzione stessa è sorta da quell'abisso per riscattarlo. Il fatto che duri da più tempo di quanto sia durato il conflitto contro gli imperi centrali e poi contro i bianchi è il segnale più incoraggiante del secolo. È anche il motivo per cui la gente sceglie di tenersela, quella rivoluzione, anziché metterla a repentaglio sfidando il partito. Per le persone oltre la vetrata, che attraversano il mattino moscovita, avvolte nei pastrani, ciò che conta è vivere. La pace, quindi, un briciolo di prosperità possibile. Che diritto può mai avere lui di sentirsi diverso? Se ha abbandonato l'idea del suicidio molti anni prima, quando ha lasciato la politica per dedicarsi soltanto alla battaglia culturale, non è così strano che nel tempo abbia trovato un modus vivendi. Si alza, infine, per guadagnare l'uscita. L'aria fresca ridesta i sensi, spingendolo a camminare spedito in mezzo alla gente.